Capitolo 16. Holden e Stella. Anna restò sveglia per ore quella notte e per diverse notti a seguire. Pensava a Holden e a Stella. Aveva la sensazione che Stella pensasse con desiderio al matrimonio, ad una casa, ai bambini. Aveva chiesto una sera di poter fare il bagno a Rilla. È così delizioso lavare il suo paffuto corpicino e queste fossette. E ancora aveva aggiunto timidamente. È così piacevole, Mrs. Blythe, quando allunga le sue adorabili vellutate braccine verso di me. I bambini sono una così grande gioia, non è vero? Sarebbe un peccato se un padre brontolone dovesse impedire il fiorire di quelle segrete speranze. Sarebbe un matrimonio ideale, ma come si poteva fare per realizzarlo con tutti gli interessati che erano alquanto testardi e contrari? Testardaggine e contrarietà non erano prerogative solo degli anziani coinvolti in quella faccenda. Anna sospettava che anche Holden e Stella ne fossero affetti, pertanto si richiedeva una tecnica completamente diversa da quelle utilizzate in uno qualsiasi dei casi precedenti. Giusto in tempo Anna si ricordò del padre di Dovey. Anna inclinò il mento in segno che era pronta all'azione. Holden e Stella si dovevano considerare sposati da quel momento. Non c'era tempo da perdere. Holden, che viveva a Harbour Head e frequentava la chiesa anglicana sul porto, non aveva ancora incontrato Stella Chase fino ad ora. Forse non l'aveva nemmeno mai vista. Per mesi sembrava che non si fosse interessato a una qualche ragazza, ma poteva iniziare a farlo in qualsiasi momento. La signora Janet Swift di Upper Glen aveva in visita una nipote molto bella e Holden era sempre stato dietro alle nuove ragazze. La prima cosa da fare allora era che Holden e Stella si incontrassero. Come riuscirci? Tutto doveva apparire assolutamente innocente. Anna si stava scervellando, ma non riusciva a pensare a niente di più originale che dare una festa e invitarli entrambi. L'idea non le piaceva del tutto. Faceva caldo per una festa e i giovani di Four Winds erano dei tali scalmanati. Anna sapeva che Susan non avrebbe mai dato il suo consenso per una festa senza praticamente prima pulire Ingleside dalla cantina al solaio. E Susan stava patendo parecchio il caldo quell'estate. Ma una buona causa esige sacrifici. Jane Pringle aveva scritto che sarebbe venuta per una visita, a lungo promessa a Ingleside, e quella sarebbe stata la scusa per la festa. La fortuna sembrava essere dalla sua parte. Jane arrivò, gli inviti furono inviati, Susan revisionò Ingleside da cima a fondo, lei e Anna cucinarono tutto per la festa, ambedue immerse in un'ondata di intenso calore. Anna era terribilmente stanca la sera prima della festa, il caldo era stato tremendo, Jane era a letto, malato, con un attacco di ciò che Anna intimamente temeva fosse appendicite, benché Gilbert avesse con leggerezza archiviato la cosa dando la colpa alle mele acerbe. E Gamberetto era stato quasi ustionato a morte quando Jane Pringle, cercando di aiutare Susan, aveva urtato una pentola di acqua calda che era sulla stufa, facendola cadere sul gatto. Ogni osso nel corpo di Anna doleva, la testa doleva, i piedi dolevano, gli occhi dolevano. Jane era andata con un gruppo di ragazzi a vedere il faro e aveva detto ad Anna di andare subito a letto. Ma invece di andare a letto, Anna si mise a sedere fuori sulla veranda, con l'aria umida per il temporale del pomeriggio, intenzionata a parlare con Holden Churchill, che era venuto per chiedere qualche medicina per la bronchite di sua madre, ma non era voluto entrare in casa. Così Anna pensò che quella opportunità fosse stata mandata dal cielo. Lei desiderava molto avere un colloquio con lui. Erano abbastanza amici dal momento che Holden spesso doveva svolgere quell'incarico. Lui era seduto sul gradino della veranda con la testa nuda rovesciata contro la ringhiera. Era, come Anna aveva sempre pensato, un gran bel ragazzo, alto, con spalle larghe, una faccia di marmo bianco, mai un accenno di abbronzatura, brillanti occhi azzurri e capelli rigidi, dritti a spazzola, neri come l'inchiostro. Aveva una voce allegra e maniere piacevoli, deferenti, gradite dalle donne di tutte le età. Era andato alla Queen's per 3 anni e aveva pensato poi di andare a Redmond, ma sua madre si era rifiutata di lasciarlo andare, asserendo motivazioni bibliche. Allora Holden si era sistemato con abbastanza soddisfazione nella fattoria. Fare l'agricoltore gli piaceva, aveva detto ad Anna. Era libero, all'aperto, indipendente da altri, aveva l'abilità di sua madre per fare soldi e l'affascinante personalità di suo padre. Non c'era da meravigliarsi, s'era considerato una sorta di premio matrimoniale. Holden, vorrei chiederti un favore, disse Anna in modo accattivante. Lo farai per me? Certo, Mrs. Blythe, rispose cordialmente. Basta chiedere, sa che farei qualsiasi cosa per lei. Holden era veramente affezionato ad Anna e davvero era disposto a fare qualunque cosa per lei. Ho paura che sarà una seccatura per te, disse Anna con ansia, ma è giusto questo. Ecco, vorrei che tu facessi in modo che Stella Chase si diverta alla mia festa domani sera. Ho tanta paura che non si divertirà. Non conosce molti giovani da queste parti. La maggior parte di loro sono più giovani di lei, almeno rispetto ai ragazzi. Puoi chiederle di ballare e vedere che lei non sia lasciata da sola e lontana dai divertimenti. È così timida con gli estranei, vorrei proprio che passasse una bella serata. Oh, farò del mio meglio, disse Holden prontamente. Ma non ti innamorare di lei, lo sai? Avvertì Anna ridendo con attenzione. Misericordia, Mrs. Blythe, perché no? Beh, in modo confidenziale, penso che Mr. Paxton di Lowbridge si stia interessando a lei. Quel presuntuoso giovane bellimbusto? Holden esplose con un calore inaspettato. Anna lo guardò come per un lieve rimprovero. Ma via, Holden, mi hanno detto che un uomo molto giovane e gradevole, solo un uomo del suo tipo, potrebbe avere una possibilità con il padre di Stella, sai? Davvero? Disse Holden, ricadendo nella sua indifferenza. Eh sì, non so se perfino lui ci riuscirebbe. Credo che Mr. Chase pensi che non ci sia nessuno abbastanza buono per Stella. Ho paura che un semplice agricoltore non avrebbe la minima possibilità, quindi non vorrei che tu avessi dei problemi nell'innamorarti di una ragazza che mai potrai avere. Il mio naturalmente è solo un avvertimento amichevole, sono sicura che tua madre la pensa come me. Oh, grazie. Che tipo di ragazza è comunque? Bella? Beh, ammetto che non è una bellezza. Stella mi piace molto, ma è un po' pallida e schiva, non troppo robusta. Ma mi hanno detto che Mr. Paxton dei soldi di suo ne ha. A mio parere sarebbe un matrimonio ideale, non vorrei che nessuno lo rovinasse. E perché non ha invitato Mr. Paxton alla baldoria? Per tenere compagnia alla sua Stella, chiese Holden piuttosto brutalmente. Sai, un ministro della Chiesa non sarebbe venuto a un ballo, Holden. Ora non arrabbiarti e fai in modo che Stella passi una bella serata, via. Oh, vedrò che abbia una travolgente serata. Buonanotte, Mrs. Blythe. E Holden se ne andò improvvisamente. Rimasta sola, Anna si mise a ridere. Ora, se io so qualcosa della natura umana, quel ragazzo punterà la vela in modo da mostrare al mondo che può ottenere Stella se lui vuole, a dispetto di tutti. È andato dritto dritto nella mia esca riguardo al ministro. Ma immagino che passerò una brutta notte con questo mal di testa. E fu una brutta notte, complicata da quello che Susan chiamava un crick nel collo, e al mattino si sentiva tanto brillante come lo era una flanella grigia. Ma la sera di nuovo divenne un'elegante e allegra padrona di casa. La festa fu un successone. Tutti sembravano essersi divertiti. Stella si divertì certamente. Anna pensò che Holden ci aveva messo quasi troppo zelo per quello che doveva essere un comportamento decoroso. Stava andando un po' troppo forte per essere il primo incontro, dato che dopo cena si era intrattenuto con Stella in un angolo non tanto illuminato della veranda, tenendola lì per un'ora. Ma l'indomani mattina, ripensando ai vari avvenimenti nel complesso, Anna era soddisfatta. Certo, il tappeto della sala da pranzo era praticamente rovinato dal gelato caduto da due piattini e da una torta rovesciata e poi calpestata. I candelieri in vetro di Bristol della nonna di Gilbert erano stati rotti in mille pezzi. Qualcuno aveva rovesciato un'intera brocca d'acqua piovana nella stanza degli ospiti, che aveva infradiciato e scolorito sotto il soffitto della biblioteca in modo tragico. I fiocchi del soffà erano stati per metà strappati via. La grande felce di Boston di Susan, L'orgoglio del suo cuore appariva come se uno di grandi dimensioni e pesante ci si fosse seduto sopra. E il fatto era che il credito fosse da parte del libromastro, dato che, togliendo tutti i danni subiti, Holden era innamorato di Stella. Anna pensò alla fine che la bilancia pendeva dalla sua parte. Il pettegolezzo locale nelle successive settimane confermò la tesi. Diventò sempre più evidente che Holden era stato agganciato. Ma che dire di Stella? Anna non credeva che Stella fosse il tipo di ragazza troppo matura per cadere nella mano tesa di uno qualsiasi. Dal padre aveva preso il gusto della testardaggine che le conferiva un alone di affascinante indipendenza. Ancora una volta la fortuna si mostrava amica nei confronti di una preoccupata organizzatrice di matrimoni. Stella era venuta una sera a vedere la Speronella e poi si era seduta sulla veranda a parlare. Stella Cesera, pallida, una creatura slanciata, piuttosto timida, ma molto dolce. Aveva una soffice nuvola di capelli d'oro pallido e occhi marrone legno. Anna pensava che fossero le sue ciglia a fare effetto, malgrado lei non fosse veramente bella. Erano incredibilmente lunghe e quando si alzavano e ricadevano succedeva qualcosa nei cuori maschili. Aveva una indubbia distinzione nell'atteggiarsi che la faceva sembrare un po' più vecchia dei suoi 24 anni e un naso che poteva diventare decisamente aquilino più in là, avanti negli anni. Ho sentito certe cose su di te, Stella, disse Anna agitando il dito verso di lei, e io non so se mi piacevano. Mi perdonerai se ti dico che mi domando se Holden Churchill è proprio il pretendente giusto per te. Stella la guardò con sorpresa. Perché? Pensavo che ti piacesse Holden. Lui mi piace, ma beh, vedi, lui ha la reputazione di essere molto incostante. Mi hanno detto che nessuna ragazza riesce a tenerselo a lungo. In molte ci hanno provato e hanno fallito. Mi dispiacerebbe vedere che ti lascia così, per un capriccio. Credo che ti sbagli su Holden, disse Stella lentamente. Lo spero, in effetti, Stella. Se tu fossi un tipo diverso, esuberante, allegra, come Eileen Swift. Oh, beh, devo andare a casa, disse Stella vagamente. Mio padre sarà da solo. Quando se ne fu andata, Anna si mise di nuovo a ridere. Io piuttosto penso che Stella è andata via segretamente giurando che lei mostrerà agli amici Ficcanaso che riesce a tenersi Holden e che nessuna Eileen Swift potrà mai mettere i suoi artigli su di lui. Quella piccola scrollata del capo e quell'improvviso rossore delle guance me l'hanno confermato. Questo per quanto riguarda i due giovani. Beh, ho paura che le difficoltà saranno per quanto riguarda gli anziani. Capitolo 17. Un verde sofà e delle belle caviglie. Ma la fortuna non abbandonò Anna. La società delle donne ausiliarie alle missioni la incaricò di chiedere a Mrs. George Churchill il contributo annuo alla società. Mrs. Churchill raramente andava in chiesa e non era un membro delle ausiliarie, ma credeva nelle missioni e aveva sempre dato una generosa somma quando le veniva chiesta. A nessuno dei membri piaceva farlo, così decisero di farlo a turno e quest'anno toccava ad Anna. Una sera si incamminò e percorse un sentiero pieno di margherite, attraverso vari appezzamenti che conduceva oltre una collina. C'era un dolce, fresco, adorabile cucuzzolo per arrivare sulla strada dove c'era la fattoria Churchill, ad un miglio dal Glen. Era una strada piuttosto noiosa, con un grigio serpentone di recinti che correvano su ripidi pendii. Già c'erano le luci accese nelle case, un ruscello, l'odore dei campi di fieno che declinano verso il mare, e dei giardini. Anna si fermava a guardare ogni giardino che incontrava. Il suo interesse per i giardini non era calato. Gilbert era solito dire che se Anna vedeva un libro con la parola giardino nel titolo, lo comprava. Una pigra barca oziava giù al porto e in lontananza una nave era ferma nella bonaccia. Anna guardava sempre una nave che usciva dal porto con una piccola accelerazione dei battiti del cuore. Aveva compreso il capitano Franklin Drew che aveva sentito dire, mentre saliva a bordo del suo vascello al molo, «Dio, quanto mi dispiace per la gente che lasciamo sulla costa!» La grande casa dei Churchill, con una cupa merlatura di ferro tutto attorno al tetto a doppio spiovente che guardava giù verso il porto e le dune. Mrs. Churchill la salutò educatamente, anche se non troppo calorosamente. La fece entrare in un oscuro e splendido salone, tutto buio, con le pareti tappezzate di marrone e dove c'erano appesi i disegni a pastello con gli innumerevoli defunti, tanto dei Churchill che degli Eliot. Mrs. Churchill si sedette su un sofà verde di felpa, incrociò le mani lunghe e sottili e sempre guardando fisso la sua interlocutrice. Mary Churchill era alta, magra e austera. Aveva il mento prominente, gli occhi infossati e blu come quelli di Holden e un'ampia bocca, sempre chiusa. Non aveva mai sprecato le parole e non aveva mai spettegolato. Così Anna si trovò piuttosto in difficoltà a preparare il terreno per il suo obiettivo, naturalmente, ma ci riuscì grazie al nuovo ministro dall'altra parte del porto, che alla signora Churchill non piaceva. Non è un uomo spirituale, disse la signora Churchill freddamente. Ho sentito dire che i suoi sermoni sono notevoli, dichiarò Anna. Ne ho sentito uno e non ne voglio sentire altri. La mia anima cercava cibo e ha ricevuto una lezioncina. Egli ritiene che il regno dei cieli sia raggiungibile attraverso il cervello. Non è così. Oh, parlando di ministri, adesso a Lowbridge ne hanno preso uno molto intelligente. Penso che sia interessato a una mia giovane amica, Stella Chase, si vocifera che faranno coppia. Vuoi dire un matrimonio? Disse Mrs. Churchill. Anna si sentiva umiliata, ma pensò che doveva ingoiare quel rospo se voleva continuare ad interferire in una questione che non era di sua competenza. Oh, penso che sarebbe un matrimonio molto appropriato, Mrs. Churchill. Stella è particolarmente adatta per essere la moglie di un ministro. Ho detto Holden che non dovrebbe cercare di rovinare tutto. E perché? Chiese Mrs. Churchill senza battere ciglio. Beh, veramente non so, ma credo che Holden non abbia alcuna possibilità. Sembra che per Mr. Chase nessuno sia abbastanza buono per la sua stella. Gli amici di Holden hanno timore di vederlo all'improvviso messo da parte come un guanto usato. È un gran bravo ragazzo e non gli deve succedere una cosa simile. Nessuna ragazza ha mai piantato mio figlio, disse Mrs. Churchill, stringendo le sottili labbra. È sempre stato il contrario. Ha visto la loro vera natura, nonostante i loro riccioli e risatine, le loro movenze e leziosità. Mio figlio può sposare qualsiasi donna voglia, signora Blythe. Qualsiasi donna. Oh, disse la lingua di Anna col tono che significava: naturalmente io sono troppo educata per contraddirla, ma non ho cambiato la mia opinione. Mary Churchill capì e il suo bianco striminzito volto si scaldò un po' mentre usciva dalla stanza per andare a prendere il suo contributo per le missioni. Oh, lei ha una meravigliosa vista da qui, disse Anna quando Miss Churchill l'accompagnò alla porta. Mrs. Churchill diede uno sguardo di disapprovazione al golfo. Ah, se lei sentisse il morso del vento che viene da est in inverno, signora Blythe non si metterebbe a pensare tanto alla vista. Questa è una sera abbastanza fredda. Non ha paura di prendere freddo con quel vestito così sottile. Non nego che sia grazioso e lei è ancora abbastanza giovane per occuparsi di eleganza e vanità. Io ho smesso di provare interesse per queste cose transitorie. Anna era abbastanza soddisfatta per come si era svolta la conversazione mentre ritornava a casa attraverso il crepuscolo verde. Naturalmente non si potrà contare su Mrs. Churchill, disse a uno stormo di storni che si stavano riunendo in Parlamento in una piccola radura scavata nel bosco, ma penso che un po' di preoccupazione adesso dovrebbe averla. Si vedeva come le dava fastidio che la gente potesse pensare a Holden piantato da una ragazza. Beh, ho fatto quello che dovevo fare con tutti i soggetti coinvolti, con l'eccezione di Mr. Chase, e non vedo cosa io possa fare con lui. Non lo conosco neanche. Mi chiedo se ha la minima idea che Holden e Stella sono innamorati. Non è probabile. Stella non oserebbe mai portare Holden a casa, naturalmente. E ora che cosa devo fare con Mr. Chase? Era davvero straordinario il modo come le cose accadevano per aiutarla. Una sera, Miss Cornelia arrivò e chiese ad Anna di accompagnarla a casa di Mr. Chase.